ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Siete pronti per iniziare una bella giornata? Com'è andata? Mi riferisco alla notte, avete riposato bene? Beh, a volte ci sembra di aver riposato bene, di aver dormito, ma ci alziamo e siamo in qualche modo stanchi. A volte la stanchezza arriva a metà mattina, facciamo un po' fatica a concentrarci, c'è chi dà la colpa alla ripresa, siamo ancora un po' arrugginiti, ma vogliamo vederci un po' più chiaro, perché noi ormai sappiamo che bisogna dormire bene, la qualità del sonno è importante, ce lo ripetono sempre tutti i medici, e noi parliamo con un grande esperto del sonno oggi con noi, il professor Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro di Medicina del Sonno al San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Professore, lo sappiamo, bisogna dormire bene, il sonno è un nutrimento della nostra salute, però... È così difficile oggi dormire bene? Ci sono tantissime ricerche che fotografano che soprattutto a causa dopo il Covid, l'esperienza del Covid, il sonno degli italiani, non solo, perché sono ricerche a livello mondiale, è cambiato. Insomma, non si dorme più bene come prima. Sicuramente l'esperienza del Covid ha in qualche modo disturbato il nostro sonno per la preoccupazione e quant'altro. Lei, dal suo osservatorio privilegiato, che cosa ci racconta? Ma sicuramente i problemi di sonno, soprattutto appunto con questo periodo Covid, sono peggiorati. Sono peggiorati anche perché durante il periodo del lockdown abbiamo assistito a una cosa particolare, questo sia nei giovani che nelle persone meno giovani. Si è andati a letto più tardi e ci si è alzati più tardi al mattino. Soltanto che poi con la ripresa della vita normale, purtroppo magari l'abitudine di andare a letto tardi è rimasta, ma poi bisogna però alzarsi prima. E quindi lei diceva prima, Nicoletta, il problema di come ci si sente al mattino. Allora, qui vorrei ricordare una cosa: quando al mattino ci si sente poco riposati, allora siamo di fronte a una situazione in cui dobbiamo andare a capire quanto tempo abbiamo dormito, perché a volte ci troviamo ad essere poco riposati proprio perché abbiamo dormito poco. Quindi questa è la prima cosa che è molto facile andare a riconoscere. Poi invece quando, ahimè, magari abbiamo dormito 7-8 ore, ma non ci sentiamo riposati e quindi al mattino siamo un po' degli straccetti, ecco, questo potrebbe essere legato a una patologia che il soggetto ha durante il sonno. Pensiamo ad esempio alle apnee, pensiamo a quelli che hanno degli scatti alle gambe mentre dormono e questi scatti purtroppo vanno a frammentare il sonno. Oppure c'è una terza situazione, questa è la più interessante a volte per noi che ci occupiamo anche dal punto di vista di ricerca di questo problema. Ci sono dei soggetti che dormono 7-8 ore, che però al mattino si sentono molto stanchi e in realtà non hanno le apnee, non hanno scatti alle gambe, il tempo di sonno appunto è normale. Allora in queste situazioni sarebbe importante andare a fare un esame per capire qual è la motivazione. Allora vorrei citare ad esempio un caso che ci è capitato poco tempo fa, una signora di 58 anni, la quale poveretta si alzava ed era uno straccio al mattino, pur dormendo 7-8 ore, e non aveva nessuna patologia particolare del sonno, ma aveva una particolarità, aveva pochissimo sonno profondo. Cioè ci sono delle persone che fanno pochissimo sonno profondo e questo si traduce in una particolare stanchezza al mattino. Ma per capire se il nostro sonno è adeguato, insomma, se abbiamo la giusta quantità anche di sonno profondo, che è anche quello che è il sonno buono, quello che ci fa riposare, bisogna sottoporsi a un esame specifico, professore. Quella di fare questo esame particolare, questo polisonnogramma che ci riesce, diciamo così, a far capire quali sono le varie fasi del sonno in cui dormiamo, la quantità appunto di queste varie fasi, di come, diciamo così, il sonno va a comporsi durante la notte, perché non dimentichiamoci che ad esempio il sonno profondo è molto importante, deve essere soprattutto nella prima parte della notte, mentre nell'ultima parte della notte deve esserci molto sonno REM, che è il sonno in cui sogniamo. Professore, ma le ore del sonno sono tutte uguali o quelle della prima parte della notte valgono di più? Questo questa è una domanda che spesso i miei pazienti fanno, no? Cioè, quindi qual è la parte del sonno più importante? Il sonno è importante un po' tutto, perché la prima parte della notte è quella con le onde lente, quelle onde particolari che rappresentano appunto questo sonno profondo, e quello è sicuramente importante, quella parte di sonno, perché è quella in cui noi proprio ci riposiamo sul piano fisico, ma non solo, è quella parte di sonno dove lei lo sa che durante la notte abbiamo un sistema di particolare che va a spazzare via tutti i detriti dal nostro cervello, ecco, tutte le proteine cattive, quelli che sono gli scarti del metabolismo cerebrale. Ecco, questa azione di pulizia del cervello avviene soprattutto nella prima parte della notte, quando c'è questo sonno profondo. Però è importante anche il sonno REM, è importante anche il sonno REM, che è quello dell'ultima parte della notte, perché questo sonno REM è, diciamo così, associato a tante funzioni importanti, da quello che può essere il problema della memoria, soprattutto la memoria emozionale, da quello che possono essere poi, e questo soprattutto nel bambino piccolo, una sorta di allenamento di tutti i collegamenti tra i vari neuroni. E quindi tutto il nostro sonno è importante, per cui quando noi riusciamo a dormire le nostre 7-8 ore sicuramente abbiamo fatto un grande favore a quello che è il nostro organismo, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista biologico organico. Professore, lei sa bene che nel passaggio tra l'estate e l'autunno, al ritorno insomma alla nostra quotidianità, il sonno può essere disturbato, e insomma qualche notte un po' agitata, qualche risveglio anticipato, difficoltà ad addormentarsi, lo mettiamo in conto. Ci aiuta con qualche suggerimento a gestire questa situazione iniziale, perché quando il nostro sonno diventa frammentato non dormiamo bene, dopo la seconda o terza notte iniziamo ad aver paura di che il problema si cronicizzi. Qualche cosa possiamo fare per evitare che questo succeda? Innanzitutto, quando noi vediamo che il problema si persiste per alcuni giorni di seguito, è bene che contattiamo appunto il nostro medico per cercare appunto di capire, cercare di individuare quella che può essere la causa. E proprio come diceva lei, Nicoletta, il fatto di sottovalutare queste prime giornate in cui non si dorme bene, quindi chiaramente ci si sente poi stanchi al mattino, il nostro cervello cosa fa? Poi comincia purtroppo a volte a condizionarsi negativamente. E si comincerà a dire, ecco, anche stanotte non dormirò. Tanto vengo ma non dormo. Esattamente, questa è una cosa che dobbiamo assolutamente evitare, proprio perché si crea poi a questo punto il condizionamento negativo e quindi il rischio di cronicizzazione dell'insonnia. Cosa fare? A volte prima ancora di ricorrere a farmaci specifici si può pensare magari di adottare tutte quelle che possono essere le misure, io dico di rilassamento e di predisposizione positiva da parte del nostro cervello, quindi anche quello che può essere l'utilizzo della camomilla, la tazza di latte caldo, quello che può essere anche l'utilizzo non di farmaci specifici, ma magari di quei prodotti che a volte possono comunque darci una mano a allentare la nostra tensione. Se non altro, poi questi prodotti ci creano appunto questa sorta di condizionamento invece positivo, no? E quindi sicuramente riusciamo in questa maniera a rilassarci di più e quindi a facilitare l'arrivo del sonno. Professore, magnesio e melatonina servono a chi e in che dose? Queste sostanze chiaramente non possiamo considerarle allo stesso livello di quello che può essere un ipnotico, però come dicevo prima ci sono sostanze come anche quelle che ha citato lei che a volte possono creare questa sorta di rilassamento che può favorire il sonno, quindi non dobbiamo però, e questo è il grande errore che molti fanno, di aspettarsi da queste sostanze un effetto simile a quello che può essere quello di un farmaco vero, perché se partiamo appunto da quest'idea resteremo sicuramente delusi. Come vanno usate, per quanto tempo, professore? Perché lei ha sottolineato, naturalmente non dobbiamo aspettarci gli effetti di un farmaco, insomma non posso prendere il magnesio, prendere la melatonina e pensare che la sera stessa il mio riposo sarà migliore. Ci sono dei modi per utilizzarli al meglio, per renderli più efficaci? Ma il problema è questo, a parte che queste sostanze in genere ci sono poi sempre delle indicazioni anche nei foglietti illustrativi che le accompagnano, ma la cosa però importante è questo, cioè non andare avanti poi eccessivamente, quindi per tantissimi giorni con questi rimedi senza riuscire a ottenere un beneficio, cioè quindi se funzionano va bene, altrimenti dopo alcuni giorni di questi tentativi bisogna comunque rivolgersi al medico per cercare di capire qual è il problema che sottende all'insonnia. Professore, parliamo del sonno dei bambini. Adesso riprendono la loro vita, riprendono la scuola, devono ritornare ai ritmi perché le regole dell'igiene del sonno, che voi come medici di medicina del sonno sempre raccomandate, prevedono appunto che l'orario per andare a letto sia regolare. Questo è un punto, però, un punto un po' dolente, ecco, in questa fase. Non è facile, Non è facile, ma non è facile perché? Perché poi queste sono situazioni che spesso vediamo, cioè il bambino magari lo si fa star su fino alle 11 mezzanotte, poi però il giorno dopo quando comincia la scuola si pretende che nel giro di 24 ore ristabilisca i propri ritmi, quindi è tutta una cosa che diciamo deve avere una certa preparazione, quindi io già alcuni giorni prima dell'inizio delle lezioni devo cercare di riportare il bambino ad avere un ritmo diciamo più normale. Quindi li metto a letto non più tardi delle 9:30 la sera. E non dimentichiamoci che poi se per un adulto è importante e fondamentale dormire, anche perché si riesce ad avere un riposo di quello che la nostra ad esempio attività cardiaca, quindi con dei vantaggi anche per la pressione arteriosa eccetera, per un bambino la cosa sicuramente più importante è quella dell'effetto del sonno sulle funzioni cognitive. Un bambino che è privato di sonno purtroppo, ahimè, sicuramente avrà delle prestazioni cognitive più scadenti. Non dimentichiamo che due anni fa quella che è l'Associazione Americana di Pediatria ha dato proprio come consiglio quello di posticipare l'inizio della scuola al mattino, proprio perché si erano accorti che questa privazione di sonno aveva giocato un ruolo negativo su quelle che erano le performance cognitive dei bambini stessi. Quindi il bambino, soprattutto i bambini in età scolare, hanno bisogno di dormire per avere, diciamo così, un miglior rendimento scolastico. Ultimissima domanda, professore. Devo puntare la sveglia molto presto al mattino e quando mi alzo ho sonno. Al sabato e alla domenica posso recuperare il sonno a cui ho dovuto rinunciare per andare al lavoro? Allora, sicuramente la cosa migliore è quella di cercare di dormire sempre in maniera ottimale e in maniera sufficiente. Ci sono recentissimi dati che dimostrano comunque che se purtroppo ahimè non si è riusciti a dormire in maniera ottimale durante la settimana, può essere utile diciamo così una sorta di fare questa sorta di recupero nel weekend, però chiaramente non si può pensare che questo sia diciamo così abbia la stessa efficacia di quello che è un sonno mantenuto costantemente durante la settimana. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Anche a voi tutti e a tutti gli ascoltatori. E anche un buon sonno, dai. Noi ci sentiamo. Grazie. Grazie a Peter Bescapè che è in regia, alla parte tecnica, a Laura Vanossi che è in assistenza e in redazione. Vi do appuntamento a mezzogiorno per gli approfondimenti della ricerca e per, come sempre, le nostre interviste video che trovate ogni giorno sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Grazie e buona giornata. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.